Eccoci qui, riprendiamo con l'anno nuovo le nostre interviste di Easy Pop, il nostro salotto musicale che si trasferisce in off ovviamente sul sito web, dove in questo salotto virtuale abbiamo quest'oggi un gradito ospite, nel senso che non è un cantante ma è uno scrittore, però anche cantante, possiamo dire così. Io vi presento Adrien Viglierchio e spero di aver pronunciato bene il cognome perché qui ragazzi. Sì, ecco, Perfettamente. ben arrivato nel nostro salotto musicale. Ciao Adrien. Grazie Franco, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, vi ringrazio di questa Ma ospitata. figurati, siamo qui per una cosa importantissima perché vogliamo appunto presentare il tuo libro inerente ai Coldplay, ma ce ne parlerai tu fra pochissimo. Io vi presento solo Adrien velocemente, è nato nel 75, se non sbaglio, a Savona. Sei un giornalista, un artista, un musicista a 360 gradi, addirittura un olista, dimmi se ho sbagliato, ti occupi appunto di musica a 360 gradi, che dire, insomma, sei molto più di me, insomma. Allora, ciao, ben Ma arrivato. no, ma non è vero. Ti ringrazio Raccontaci un per po' la di te, modestia, insomma. assolutamente. Non sono più di nessuno, nessuno è più di nessun altro. Ognuno, diciamo, ha il proprio percorso. Noi diciamo che io nel mio piccolo ho avuto la fortuna di unire due strade, che sono appunto uno, quella della musica, quindi faccio musica da quando sono piccolo, insomma, da Sanremo, io ci sto per 31 anni, eravamo nei 24 e nuove proposte da lontano 97. Poi dopo io feci un disco, il dodicesimo pianeta, uscito nel 2012 e diciamo con le preproduzioni di arrangiamenti di Prontremoli, dove comunque lo studio di Zucchero, e poi dopo da lì ho iniziato a lavorare per questo faremusic.it, che è un sito di musica e cultura, dove io poi sono appunto diventato caporedattore, e il nostro patrone è Alberto Salerno, quindi il marito di Mara Maionchi, un grande autore di musica italiana. Certo. Quindi da lì poi dopo mi è stata proposta la bellissima notizia di realizzare questa biografia sui Coldplay, che appunto è una delle band più famose attuali a livello pop rock nel mondo, Assolutamente. e che sta facendo molto anche sull'ecologia. Io però, ecco, appunto ne parleremo oggi, sicuramente questa biografia non è solo una biografia aggiornata della band, ma anche un racconto, diciamo, fantascientifico, dove appunto abbiamo creato un personaggio che in maniera romanzata parla la loro lingua e racconta la loro storia. Quindi anche tutti gli aneddoti, poi ci sono un sacco di interviste di fan, quindi insomma è un bel Aspetta, viaggio. aspetta, aspetta, che sei corso troppo. Allora, dobbiamo parlare appunto dei Coldplay e di questo libro. In pratica tu hai fatto, se non sbaglio, da fan, posso dire, dunque tu hai fatto un libro dove però metti anche il significato della musica dei Coldplay nelle mani dei fan per spiegare un po' i segreti che si trovano all'interno della musica dei Coldplay, dei testi. Se non sbaglio, un po' come feci io con la fanzine appunto tanti anni fa, lo dico di Mango, in cui facevo parlare, non ero protagonista io, comunque la redazione, ma i protagonisti erano i fan, giusto? Giustissimo, a parte che comunque tu non so se lo sai, ma io sono amico della famiglia di Mango, ho conosciuto Pino per tanti anni e ho cantato anche addirittura un suo memorial. E quindi ripeto, per me è bellissimo sentirne parlare. Noi sì, abbiamo realizzato anche, appunto, io ho realizzato parecchie interviste con fan provenienti da varie parti del mondo. Chiaramente mi sono riallacciato alle interviste ai fan italiani, le date di Napoli-Milano, che Certo. sono state assolutamente eccezionali da un punto di vista di ascolto e anche di pathos proprio del gruppo con i fan italiani. E poi da lì ovviamente poi ho cercato proprio le persone che sono anche proprio salite sul palco con Chris Martin, quindi loro mi hanno veramente raccontato tutta la loro esperienza, e anche tanti altri che fanno viaggi da diverse parti del mondo mi hanno raccontato la loro esperienza, che rappresenta, tra virgolette, un grande sacrificio, voglio dire, non solo economico, ma proprio emotivo, per portare le famiglie a sentire appunto i loro testi, che comunque comunicano e parlano d'amore, di conseguenza questa cosa è un comune denominatore, e questa qua ha valso un capitolo del libro. Diciamo che, come dire, è una parentesi dove il lettore anche lì si emoziona, ride, si rende conto delle persone cosa muovono per questo gruppo, e quindi è un comune denominatore. A me mi premeva raccontarlo, tra cui c'è anche la mia storia, anche con Certo, loro, da è da fan. fare, Quindi, certamente. come Senti, dicevi. qualcuno ha scritto del tuo libro che ti ispiri un po' all'album Moon Music. Non so se tu sei d'accordo o meno. Sì, vabbè, ispirarmi forse da un punto di vista forse più legato al titolo, quindi all'attualità, diciamo, della biografia stessa, perché il Moon Music è venuto fuori proprio per il fatto che, sapendo che c'era in uscita, diciamo, questo secondo capitolo di Music of the Spheres, incentrato sulle lune, visto che loro hanno questi ultimi dischi incentrati sul loro sistema solare, dedicato, quindi proprietario, io ho ideato un personaggio che si chiama Andy Moon, che è praticamente voluto come amante della luna dal greco, da Endymion, e questo personaggio racconta la loro biografia, racconta la loro storia e soprattutto cerca di incontrarli per comunicare loro dei messaggi importanti. E questa cosa qua è una cosa che ovviamente è collegata a Moon Music, quindi lo rende attuale, no? Quindi io ho scritto anche delle cose un anno prima, tipo Adria Damus mi chiamano, perché poi sono uscite un anno Certo. dopo. Quindi diciamo, ho dovuto fare un po' il veggente da questo punto di vista, però avevo già delle informazioni a mio favore, Certo, su questo, ma sì. dunque, tu racconti proprio tutto, anche degli aneddoti, per esempio in Australia c'era un ragazzo che era in difficoltà, che era stato schiacciato, diciamo, dalla folla, e quindi si è bloccato il concerto per questo ragazzo, non lo so, ci racconti un po', insomma, il dietro le Sì, quinte, appunto, di quanto succede, appunto, nei concerti. assolutamente. Cioè, il bello di questo libro è che all'interno di ogni biografia non c'è solo, diciamo, una parte aggiornata a livello enciclopedico, ma ci sono anche gli aneddoti e comunque le curiosità loro, ripresi come personaggi e come esseri umani, no? Veri e propri. Non so, appunto, Guy Berryman che fa lo stilista e quindi ha questa grandissima passione a livello proprio di collezionismo. Ecco, Johnny Buckland, che lui appunto ha delle case molto particolari, appassionato d'arredamento, vuol dire Will Champion, che è appunto un antropologo eccezionale, e poi Chris Martin, che ha tante passioni per il surf, ping pong, per mille cose, e poi a loro succedono tutta una serie di cose dove, in determinate interviste che io ho estrapolato e tradotto dall'inglese, ho voluto far volare un po' il lettore. Chiaro che poi ci sono anche tanti momenti in cui si racconta il backstage, quindi si parla della crew, diciamo proprio ufficiale dei Coldplay, che fa un certo tipo di beneficenza, fa addirittura delle maratone di flessioni all'interno durante le prove per far beneficenza, oppure non so, situazioni dove magari io racconto del linguaggio dei segni dei fan filippini, che sono eccezionali da questo punto di vista, che mi hanno raccontato, che hanno fatto un'intervista eccezionale con diciamo, il proprietario proprio della crew filippina, linguaggio dei segni, per il TG di Manila, che sono stati chiamati apposta per il concerto Coldplay. Quindi ci sono situazioni da backstage che sono davvero inedite. Pazzesche, come pazzesco è quando Chris Martin ha chiamato per esempio Michael J. Fox sul palco a suonare. Io l'ho trovata una cosa incredibile, perché è la nostra generazione Assolutamente, legata sicuramente al assolutamente, film Ritorno al futuro, insomma, a questo personaggio, quindi assolutamente. Esatto, esatto. bellissimo. Quindi lo hai riportato. Stupendo. Sì, credo che Glastonbury. Allora, Glastonbury fa parte. Io avevo consegnato il libro effettivamente prima che ci fosse Glastonbury, quindi non è inserito sul libro. Diciamo, io l'ho inserito come aggiornamento sulla versione Ok. ebook, perché quando successe, diciamo che il libro era già Certo. fatto. Però io poi feci alcuni aggiornamenti, quindi nella parte ebook sono già inseriti questi aggiornamenti, dove appunto ci viene citato anche Glastonbury, che è stato, perché sicuramente come lancio, uno dei concerti più emozionanti, con 120.000 persone. E un invito di ospiti, oltre a Michael J. Fox, anche della pianista disabile che ha suonato Paradise, insomma, ci sono stati diversi disabili che ha chiamato sul palco, Sì. e comunque Michael J. Fox, i grandi appassionati, diciamo, tra virgolette, nerd degli anni 80, 90, come ci possiamo Esatto. essere noi. Io sono praticamente col Sì. 75, esatto, quasi coetaneo di Chris Martin, e quindi quel momento lì di Fix You, devo dire, ha emozionato anche i Coldplay. Io ho visto Will Champion e Guy Berman che avevano le lacrime agli occhi, che non è facile, perché comunque loro cantano canzoni abbastanza gioiose, ma quella lì è stato un momento veramente toccante. Infatti lo consiglio a tutti di andarlo a riprendere, quel Glastonbury. Ok, io mi chiedo solo che, forse possiamo fare un appello, no, a questi fan, anzi la vita dei fan è difficilissima, perché viaggiare per tutto il mondo, mettere via i soldi e seguire una star è praticamente pazzesco se non impossibile, è che l'ho fatto anch'io ai tempi, e veramente gli espedienti erano incredibili e i passaggi scroccati, veramente. Una cosa da fan, la vita dei fan è anche difficile. Senti una cosa, quella è vita per passione musicale. Certo, mamma mia, sapessi cosa ho fatto io. Comunque, il falsetto, siamo qui per parlare di te, ovviamente. Una frase che mi ha colpito molto è il falsetto ispirato agli A-ha. Dunque, Chris adora gli A-ha e stima molto i Muse, ha detto che sono queste le sue, diciamo, band, insomma, in cui si ispira, diciamo, dal passato. Tu che cosa ne pensi? Secondo te è vera questa cosa? Come no, certo, assolutamente, no, è verissima, anzi, è una cosa che mi ero riproposto di fare in una volta che quando andai in concerto da loro, c'è un momento dove i fan alzano i cartelli, dove poi lui decide, diciamo, di far salire una persona sul palco a fare un brano lui, diciamo, da soli alla tastiera. Sì. E io prima o poi giuro che preparerò un cartello dove sopra scritto cantiamo insieme Hunting High and Low. Penso che mi chiami al volo. No, perché comunque lui è un grande fan degli A-ha, perché quando erano diciamo ancora non con così grande repertorio, ma quindi all'uscita di dei propri due dischi primi personali, quando finivano un repertorio live loro iniziavano a cantare pezzi degli A-ha. Quindi il disco Hunting High and Low Chris Martin lo sa a memoria e lo canta spesso. C'è un filmato su YouTube molto carino che col tastierista degli A-ha, Monje, lui è stato bellissimo a cantare Hunting High and Low. A parte che comunque col insieme al tastierista degli A-ha, Guy Berryman, lui suona anche nel suo gruppo, si chiamano gli Apache, non lo sapevo questo, che sono un altro gruppo dove il bassista suona. Sì, loro hanno mantenuto questa cosa, lo dicono apertamente, sì, per loro. Anzi, Chris Martin credo che fosse praticamente credo innamorato di Morten Harkin, il frontman degli A-ha, perché a parte che è un bellissimo ragazzo, a quei tempi era un sex symbol, insomma, no? E quindi poi aveva questa voce con questo falsetto che credo che ha conquistato tutti. Parlando di Nizza, caspita, infatti l'anno scorso sono venuto a Nizza, me li sono persi, bisogna che devo recuperare. Assolutamente, andremo a recuperare anche noi, perché insomma queste cose sugli A-ha, che non hanno poi tra l'altro mai smesso di fare musica in realtà, sono ancora attivi. Mai smesso. Solo che in Italia ovviamente si fa più fatica a trovare i loro album, però insomma sarebbero veramente da recuperare, al di là di Take On Me, insomma, che sei nel loro repertorio. Non sì, sono. Take On Me hanno fatto una versione molto bella in versione unplugged che è piaciuta tantissimo. C'è un video da recuperare assolutamente online che si trova, che è un live in Norway, quindi in Norvegia, in un'isola della Norvegia, dove loro hanno fatto una sessione unplugged che è qualcosa di toccante, da cui hanno poi tratto un doppio album. Ok, andremo a recuperare anche questo. Senti una cosa, quest'anno tra le novità discografiche, anzi no, tra le novità del tour, c'è un certo braccialetto che veniva dato ai fan, oltre che come ricordo, mi sembra per qualcosa d'altro. Ci vuoi raccontare questa esperienza? E allora, braccialetto, intendi braccialetti luminosi? Sì, esatto, qualcosa deve farne uno. Ai miei tempi c'erano i cuoricini, perché prima c'erano gli accendini, dagli accendini siamo passati agli accendini, per dire, ai LED, queste cose, questi cuoricini diciamo colorati, adesso c'è il braccialetto. Certo. Allora, il braccialetto infatti si chiama Cyberband, l'hanno chiamato proprio così perché cioè, il suo inventore addirittura dai tempi del 2014, se non erro, aveva lanciato questa idea. All'inizio, devo dire che infatti lo racconto, fu un dispendio di soldi abbastanza alto, perché comunque i costi erano piuttosto ampi rispetto comunque a quello che poteva essere magari il loro introito, ma fondamentalmente perché comunque loro diciamo che hanno svoltato veramente nel mondo dall'album da Viva la Vida in poi. Quindi da Viva la Vida in poi, chiaramente hanno poi trovato dei fornitori che gli permettessero anche di fare degli upgrade di questi braccialetti. Erano braccialetti che tuttora appunto hanno dei LED di color. I braccialetti si chiamano Sì. Xylobands, loro sono una creazione che dal 2014 sono stati introdotti, diciamo all'inizio, diciamo in maniera un po' dispendiosa, ma poi hanno trovato il modo di creare delle versioni anche più economiche per riuscire comunque a poterli distribuire e soprattutto riciclare, perché è completamente riciclabile presso tutti i fan. Questi braccialetti hanno appunto i loro LED a 16 milioni di colori che possono manovrare da una centralina che va ovviamente a tempo di musica. Quindi loro possono tranquillamente, i primi pionieri, diciamo, di questa tecnologia, creare una coreografia luminosa sia a livello di colori che a livello di forme in tutto lo stadio. Quindi questa cosa chiaramente crea un'atmosfera eccezionale. Quindi loro possono creare immagini. Adesso in questi giorni che sono ad Abu Dhabi stasera per la seconda data, hanno questi braccialetti dove addirittura possono creare delle scritte enormi sullo stadio, quindi per dare messaggi anche in scorrimento, eccetera. Quindi, insomma, tecnologie LED sicuramente asiatiche state portate alla funzione proprio della Beh, musica live. bellissimo. E molto bella questa cosa. Poi però il braccialetto resta a te oppure, giusto per curiosità, oppure devi No, restituirlo? allora, no, dicevo che no, loro tendono, loro danno la loro spilletta chiaramente della Love Button per la raccolta fondi per i disadattati, come insomma una delle Iniziative tante, benefiche, diciamo certo. loro, iniziative benefiche, esatto, e poi dopo loro richiedono chiaramente ai fan di riconsegnare i braccialetti perché sono al 100% riciclabili, quindi loro li lavano, li riutilizzano e li rimettono in pista per la prossima data, giustamente così, insomma, diciamo che comunque hanno raggiunto dall'85 al 95% di restituzione, anche perché, lo dico, molti fan sono già andati a diversi concerti, quindi il primo sono tenuto e dal secondo in Giustamente. poi lo rilasciano, anche perché uno è un po' un Certo. ricordo, l'altro è sicuramente, insomma, un modo per agevolare quella che è la loro, giustamente, campagna Perfetto, ecologica. va, veramente incredibile. Esatto. Quindi sicuramente ci hai dato la voglia appunto di andare a vedere un concerto appunto dei Coldplay. 47 album al loro attivo, se non sbaglio, praticamente da tutti questi album, secondo te, qual è l'album più bello a tuo avviso dei Coldplay? Dunque, allora, ti correggo solo un secondo, gli album non sono così Ah, tanti, tra nel live, eccetera, senso, magari. probabilmente, tra live, eccetera. E Sì, nel senso sì, che probabilmente, esatto, tra live e tra, varie diciamo, gli stampe, perché poi sono EP iniziali, che erano, stampe, mi sembra. esatto, un 3/4, poi hanno fatto stampe da collezione, però diciamo che in realtà, ufficialmente i loro album sono questo qua, Moon Music, risulta essere il decimo album, diciamo, da gruppo Coldplay. Poi il prossimo è un undicesimo, che sarà un musical a quanto Però. pare, e il dodicesimo, esatto, vogliono fare uno spettacolo stile musical da poter, insomma, divulgare un po' in tutto il mondo, e il dodicesimo sarà la chiusura della trilogia Music of the Spheres, diciamo. Quindi da lì in poi, ovviamente, poi potrebbero fare anche solo repertorio e collaborazioni. Scusami, mi sono sfuggito l'ultima No, domanda, appunto, mi hai volevo detto. sapere, sono 10 album, qual è il tuo album migliore, a tuo avviso, insomma, l'album più bello che uno deve mettere sul Ah, piatto e dire questo è certo. proprio l'opera che è Coldplay? Beh, sicuramente Paracaut, io credo che Il il secondo. secondo. Già, il primo, cioè, li prendo entrambi, Paracaut e anche The Rush of Blood to the Head, il secondo, credo che siano i due dischi, se uno vuole introdursi ai Coldplay è assolutamente impossibile non ascoltarli. Primo perché ovviamente unisce tutta la passione di tutti i fan del mondo e comunque li conosce perché loro, come dire, Hanno da quei due album debuttato, ne derivano, insomma, giustamente. cioè, derivano le... Hanno Esatto, debuttato con un gli suono sforzi che hanno anche, fatto per diciamo, riuscire a... particolare, perché prima non c'era Il niente. suono, sì, perché comunque lì erano ancora molto analogici, meno elettronici, insomma, si rifacevano, suonavano comunque insieme ai Muse, Certo. diciamo ancora molto giovani, e comunque li paragonavano un po', diciamo, ai Radiohead, anche se a quel tempo già i Radiohead erano alieni a confronto, però comunque poi loro ovviamente si sono elettronicizzati dal momento che hanno incontrato Brian Eno. Quindi da Viva la Vida in poi sicuramente è diventato un gruppo anche molto elettropop, quindi non solo Britpop. Invece in quel caso lì, i primi due dischi, anche e soprattutto gli EP, che sono molto belli, a me piacciono molto, sono Britpop al 100%. Certo. Giustamente, erano un gruppo di Camden, E quindi. allora io starei a parlare ore, insomma, con Adrien per parlare, appunto, sviscerare Grazie, questo Franco, libro che è reciproco, reciproco. incredibile. Lo si trova dove? In tutte le librerie, ovviamente. Bisogna richiederlo, trovarlo sul web, insomma, Sì, raccontaci. sul web si trova un po' ovunque, in tutte le librerie, addirittura l'ho scovato in librerie anche giapponesi, austriache, però comunque sì, online è richiedibile assolutamente, su Amazon è chiaramente il posto più, diciamo, più fruibile e veloce per comunque averselo, però noi l'abbiamo distribuito, cioè la casa editrice, la IPC, ha distribuito in Feltrinelli, in Ubik, in varie librerie, anche Mondadori, eccetera. Chiaramente, se non hanno le copie, in pochi giorni Arriva, loro lo sì, l'ho richiedono alla casa visto per editrice e viene Natale, immediatamente l'ho visto per inviato. Natale, quindi insomma è schizzato nelle vendite, quindi sicuramente Sì, abbiamo avuto è il picco sicuramente. un'ottima ascesa, devo dire. Sì, siamo molto contenti perché sta andando molto bene. I feedback sono molto belli, anche come ti dicevo, per ancora le persone che non sanno ancora di essere fan dei Esattamente. Coldplay, ma anche perché leggono la parte romanzata e vogliono vedere anche come va a finire questa storia, anche per scoprire il segreto della musica eterna. Cioè, il nostro titolo è un po' Harry Potteriano, no? Un'altra passione Ed di è cantanti. voluto. Quindi l'abbiamo fatto apposta. Poi, diciamolo, c'è anche poi mia mamma che è la coautrice di questo libro, che ha scritto molti dialoghi del personaggio nostro protagonista, che è Annie Moon, quindi a lei devo tantissimo, perché comunque ha scritto cose molto emozionanti, devo dire. E quindi le persone, devo dire, che anche nelle recensioni hanno colto queste grandi emozioni, quindi è importante dire questa cosa perché è proprio, come dire, l'asse portante di questo volume, al di là delle nozioni Va bene, musicali. allora abbiamo parlato del tuo bel libro, noi ti lasciamo perché so già che sarai già impegnatissimo per il prossimo Festival di Sanremo, sarai impegnato insomma ad altre cose, Esatto, ci ad altri vedremo là. progetti. Noi allora ti facciamo in bocca al lupo, andremo sicuramente a scovare, a ripescare intanto la musica dei Coldplay, andremo Grazie. a cercare il tuo libro, anzi a leggerlo e insomma che dire, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Franco. A presto allora. Grazie infinite a Radio Città Fujiko, io vi ringrazio, a tutti gli ascoltatori, vi ringrazio tantissimo, a presto e buona lettura. Sarò onorato di rispondere alle vostre domande. Perfetto, e allora noi ci sentiamo prossimamente, sempre nel mio salotto Easy Pop, in questo salotto virtuale abbiamo ospitato Adrien Viglierchio che ci ha appunto presentato il suo libro. Ti ringrazio, ciao!